Do il buongiorno ai ragazzi e le ragazze del gruppo di ricerca Dalla Ridda. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao! Allora ragazzi, io partirei un pochino dal principio, magari per chi non vi conosce come gruppo di ricerca. Avete voglia di raccontarci che cos'è Dalla Ridda e come mai nasce? Dalla Ridda nasce nel 2018 come gruppo di ricerca studentesco e parauniversitario. Ci riunivamo in aula Mondotto a 38. L'ambito di cui ci occupavamo era la filosofia, in particolare quella francese contemporanea, o come ci piaceva chiamarla all'epoca, un po' per scherzo, il post-niccianesimo parigino. L'esigenza che c'era dietro il nostro progetto era quella di creare uno spazio dove l'apprendimento potesse essere gestito e organizzato dalle persone direttamente interessate, vale a dire da chi questo apprendimento doveva in qualche modo farlo o subirlo. Ben presto però ci siamo resi conto che non era possibile prendere seriamente questo compito, non potevamo assumerlo coerentemente fino in fondo, senza tagliare conti con tutta quanta una serie di cose, la frontalità, il ruolo dell'autore, la filosofia stessa, in sostanza, con i suoi temi, il suo lessico e la sua postura. Per forza di cose abbiamo iniziato a sporcarci un po' le mani, abbiamo avuto qualche problema col Dipartimento di Filosofia e Comunicazione. Siamo spostati prima a statistica, poi abbiamo iniziato a fare alcuni incontri nelle nostre case, addirittura in una lineria, uno ai Giardini Margherita, e poi con il Covid le cose sono cambiate del tutto, perché alcuni di noi hanno cambiato città, interessi, la richiesta di incontri è sorta da luoghi e persone inaspettate o che non conoscevamo, e ora come ora Dalla Ridda non ha nulla a che fare con la filosofia, cioè Dalla Ridda le filosofe sono in netta minoranza, ma a dire il vero è veramente difficile capire chi ci sta dentro e chi no, perché non ci sono dei confini netti, la gente viene agli incontri, ci propone qualcosa e lo facciamo tutte insieme. Le stesse ospiti invitano altre ospiti e decidono degli spazi, delle modalità di discussione. Per usare una metafora potremmo dire che al momento attuale Dalla Ridda è un ripetitore di voci che non ci appartengono, tra cui anche le nostre. O appunto una ridda, un girotondo, una danza di cui si fa parte solo ed esclusivamente nel momento in cui si contribuisce alla sua esistenza, alla sua perpetuazione centrifuga. Molto bene ragazzi, insomma siete un grande gruppo eterogeneo, mi verrebbe da dire. Tra l'altro per i mesi di febbraio, che insomma sta per finire, ma poi continuerà anche a marzo, avete fatto partire un seminario dal titolo Latenze, seminario disperso sui modi di nascondersi. E di che cosa parla questo seminario? Latenze è il seminario che abbiamo organizzato quest'anno, che è nato proprio come una conseguenza diretta della forma che ha assunto la Ridda negli anni. Non solo abbiamo scelto un tema, che è quello appunto della vita segreta, della latenza, del nascondimento, un tema che appunto ci avrebbe consentito di uscire definitivamente da una certa esclusività filosofica, ma il modo in cui gli incontri sono stati pensati è stato via via modulato sulle esigenze poste, non tanto da chi organizzava gli incontri o dagli eventuali relatori e relatrici, ma dai problemi e dai temi che di volta in volta venivano presi in carico, cercando allo stesso tempo di incrociare percorsi di ricerca multiformi, senza però piegarli univocamente alle nostre aspettative. Insomma, in qualche modo siamo noi che ci pieghiamo alla loro specificità e alla specificità delle relatrici. Abbiamo già fatto due incontri per il momento, settimana scorsa, uno sulla sociologia segreta, un secondo sull'arte queer del nascondersi. Nel primo caso, ad esempio, a parlare erano, oltre che due etnografi che stimiamo molto, due amici che hanno condiviso un sacco e anche fisicamente il proprio lavoro di ricerca, supportandosi materialmente anche nelle difficoltà incontrate nella censura accademica. Nel secondo caso invece abbiamo chiamato un collettivo bolognese, Laboratorio Smascheramenti, e una storica d'accademia per immaginare un dialogo fra due realtà che raramente si incontrano per parlare. A questo proposito è anche da notare che metà degli incontri, non necessariamente i più tradizionali, si svolgono in università, mentre l'altra metà ha luogo in centri sociali e luoghi d'aggregazione meno impostati. L'idea alla base di fatto è un seminario che si dichiara disperso e dedicato a modi di nascondersi, ed è quella quindi il punto è quello di attraversare una serie di esperienze che ci stanno a cuore. Questi sono la marginalità, la queerness, l'autismo, la salute mentale, le droghe, tutti quei piccoli modi di nascondersi, online e non, di chiuderci in casa oppure anche di uscire allo scoperto, di prendere la parola, ma non rifiutando mai di interrogarci sul prezzo, la provenienza e le implicazioni di questi gesti quotidiani che forse appunto per questo divengono nascosti. Bene ragazzi, insomma so che avrete tantissimi altri incontri appunto per sia la fine di febbraio ma anche il prossimo mese, quello di marzo, e vi volevo chiedere, per chi avesse voglia appunto di partecipare, di magari sbirciare un po' il vostro programma, come può farlo? Sì, innanzitutto c'è la pagina Facebook di Dalla Ridda e anche la pagina Instagram in cui trovate il programma completo e anche gli aggiornamenti. Tra l'altro facciamo anche delle delle locandine, e ringraziamo tantissimo Mia Werther perché sta facendo delle locandine stupende che vedete un po' fisse ovunque al 38, nelle biblioteche e non solo. Gli incontri, come ho già detto, sono a metà nel Dipartimento di Filosofia, e l'altra metà invece è in alcuni centri sociali, il Centro Sociale della Pace o il Circolo Anarchico Berneri. È stato già detto che il modo con cui si svolgono gli eventi è sempre diversificato, quindi non si tratta mai solo di lezioni frontali con un ospite, ma poi abbiamo incontri ad esempio con quello del 1° marzo in università, qui ci occuperemo di studi critici sull'autismo e crip theory, o addirittura incontri con collettivi che si occupano di droghe, di ricerca sugli usi psicoattivi e prevenzione del danno, e hanno invitato tra l'altro a catena una serie di collettivi, quindi ci troveremo ad avere a che fare con una serie di gruppi anche molto diversi tra loro che dialogano tra di loro per la prima volta. Abbiamo anche aperto una call rivolta ad utenti di servizi psichiatrici, perché faremo una sorta di laboratorio partecipativo che coinvolgerà appunto da un lato gli utenti che risponderanno alla call, dall'altro invece a persone che attivamente gestiscono il sapere psichiatrico nei centri di salute mentale e in accademia, quindi si tratta appunto sempre di creare dialoghi imprevisti tra l'accademia, i laboratori, gli utenti dei servizi psichiatrici e non. Gli ultimi due invece l'ultimo in particolare è proprio un workshop di cyberfemminismo in cui attivamente cercheremo di mostrare come è possibile nascondersi online, o alcuni artisti, giornalisti, accademici che cercheranno di dimostrare in che modo si sono riappropriati dei data creando nuove narrazioni con il materiale informatico. Comunque sì, tutto il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook di Dalla Ritta. Molto bene ragazzi, io vi ringrazio veramente per averci raccontato da più vicino che cos'è Dalla Ritta, insomma, e tutti gli incontri che ci saranno da qui fino a fine marzo, e in bocca al lupo per tutto ragazzi.